cattura. Lo che pubblica. Vabbè, grazie a... Ah, ci sì. Hola, canale 7. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Grazie a te, ci sì. Graziano, Graziano, Graziano è in tournée. In tournée Graziano è? Quando mai? A Piazza Italia se ne è andato a contare mattonelli. Io pensavo che stava facendo lo chef. Oh, e scherzo. Pensavo che stava con la cucinata a quest'ora. Oh, che si sta mangiando ancora il maialetto che c'era dall'altro giorno. Ancora non ho finito! Figura di tu! Crocco, tanto già pesava poco col maialetto, tu chi? Se lo mangia solo carne di maiale, basta! E cui se sai non le mangia? Carica, mangia un bel, carica! Così è Gio Mari, bubu! Via, porchetto è carica, mangia, e tu! Fa bene, a me ringrazia un pochettino! Sei a casa? No, sono di fronte alla stazione. Ho fatto un lavoro e sono qua aspettando un amico. Ah, è perché a momenti manchi, Ho capito, a momenti manco. E non è perfetta, perfetta, comunque. Ci sono delle scariche in mezzo, però riesco a capirti, dai. E beh, secondo come passano le macchine qua, capito? E sono sei uscito. Qualcuno che è uscito male. La scarica sei a Toledo, tutta scarica sei adesso. E adesso scarica sono? Negativo. Vada, poi se mi senti adesso. Aspetta che mi metto un punto aperto, aspetta. Adesso sei uscito bene. Perché adesso sono aperto per dove sei tu, già lo credo. Il punto dove c'è la stazione, dove c'è il viale produttore si pratica bene adesso. Adesso già va bene. Adesso è perfetta la radio. Ci mancherebbe, ca. Ehi, già va bene. Nessun altro c'è in giro. Graziano, deve essere ancora in Piazza Italia. Sì, a fa cosa? A mungere le pecore. Contare mattonelli ha dato. Ha preso la carrozzina con la bomboletta e se l'ha data a Piazza Italia. Dice contava le mattonelle a me quando ce n'erano. Figurati tu, crocro. Graziano. Sta sabbigliando da qui dove era bene a Burba, Bassegnacini. Ah, ha fatto bene. E se no fa peggio. Ehi. Dai, ci sentiamo, mattonelle. Che se mi so prendo il sole in facciata, dai. Vabbè, non so che c'è un sole qua alla stazione che si sta bene, stanno 15 gradi, 17, si sta benissimo. E c'è caldo qua, alla finestra, ho osservato tutto e c'è il sole che è un bambù, c'è il piede bollente. Meglio così, sono contento. Ehi, avevamo solo a Iegio, avevo un po' se c'è plus donno. Fai pure, io sono all'ascolto. Se hai bisogno, io sono qua. Ehi, ci sentiamo, dai. Ehi, a dopo, ciao. Mal di seso, tu terra? Cucina, so. Non ti sento bene, no? Sento buco, dormi. tutti. Mi sto succhiando una caramella alla menta, dato che non c'è altro. Ah, se vuoi succhiare, ce ne sono cose da succhiare. Buona, rinfrescante il frutto, sembra una signorina. Ecco, mangiati una caramella all'aglio. Quelle deve girare a Marino, che è la notte, e a Torre Squallo, che sono la notte, come tutti i freddi. È vero. Ma l'ha fatto i cagarismi oggi, eh? Non li ha fatti oggi, no? Non mi tossi. Ehi, seduto sono. Ma seduto in piedi, sì. Seduto sono. Ma seduto in piedi. Diglielo, grazia, diglielo. Bello bene. Capito mi hai, Luca, ma non sei andato a lavorare. Ha detto che succede a caramella. Buona vita, è fresca fresca. No, io al lavoro non sono andato. E dove vado al lavoro? Mi hai fatto un lavoretino per i fatti miei. E il maestro non te l'hai più fallito, a bella azienda mi fa. Quello che fa le sue tentative. Ehi, l'ha già preso un capo. Ah, ha preso un capo di sotto, muro. Sotto, è a puntello, di Sardona. Ah, no, lui. Ha preso un altro di capo. Sono. L'ufficio dei autotrasporti. Lui invece è stato un puntino. Tiago di Muffa va a Milano. E due lì. E la me mi chiamava solo la San Martina Regalereva. Un viaggio alla chiesa, gli hanno fatto l'affare, via. Ma con te ce l'ha, Olu? E allora, già campi di tanto. Che ne sono? Le sei meno un quarto, mi pare che mi la via, 60 euro a viaggio, 60 mila franca a viaggio. Una voce alla chiesa, gli ammazzi. Mi sembra un fatto sono, veramente. Io non mi chiudo più, mi sa. Oggi è una bella giornata di andare a spara, di aprire i provvisti, avresti fatto qui 40-50 euro, a più di sopra, Beh, se lo vuoi sapere, me l'ho già comprato il paramo. Da un amico, un mazzo, 70 sparaggi di 5 euro. E io li ho comprati, 3 mazzi di 5 euro, me li hanno portati a 12. Ha pigliato una volta di Correa, si è distrutto un po' freddo. Aspetta che rientro subito, Giovanni. Vedi? Perché stai uscendo a tratti? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Che prima stavi uscendo a tratti. Che mi stavo spostando. Quale c'hai? Quello che mi hai portato tutti. Ah, ehi, ehi, ti stava cercando Pomponio stasera. Si l'ha fatta ma così quanta chiamati, Graziano, Graziano. Io non l'ho sentito, ciao Luca Gufo. Ciao Lu, buonasera. E beh, ha soliato di sì oggi. È un'altra giornata bella oggi. Sì. Adesso incominciano, eh. Sì, bella come Luca. Niente. Boh. Uia. Lascialo stare a Luca che oggi è arrugginito, che è ancora coricato. Mi ha detto. Non si fa un riposino con pranzo. Signore di quel tratto, la gente non si è andata a spara, di nuovo me li ho comprati. Mi di una fame, Luca, boh. Mi ha detto si m'assumi. Si m'assumi, ve l'ha giudito, boh. Avevi ragione, io che tutti i bignetti, eh? E io dicendogli di andare da te a fidarti a lavorare. Ah, te li immagini. Sai che non ne ha bisogno, Luca. Che già se li ha lo stesso i soldi. E allora, fa sviluppare tante. Vive di reddita. Che avrebbe si fa a travagliare? E allora, casa propria, di proprietà, mica come te noi, poveri, disgraziati, ti faremmo la pizza. Lui, dai, già mi sto ascoltando, sto facendo roba che devo finire. Vai. Fai. Mi raccomando, Quando una Graziano. Vai, che Graziano per fare queste cose. E allora ti do con l'interruttore e mi tocco senza interruttore. Cagando il rame l'interruttore della luce e mi muore cacche tu di nocchi. Paoli dai, lui sul tenuto un mese su te. Ciao Mari. Allora, posso correre un pericolo di nocchi, muore cacche tu. Ci muore le mani senza interruttore. Moccio, per tante chi da ragione, mi graziano. Ah, Gio Mario. Oh! Ah, il materiale, graziano, e dopo i presi non ha fatto, mi sono in giugno. Come faccio a farle? Se me le porti e li do la mattina e me le porti la sera, allora si può fare. Ma lei ti ridò che mi arrivi fra un mese, così magari ti ha attaccato la rumi. A te immagini, Gio Mario. Ah, vai, il materiale, graziano. Tu, se io prego, quindi non do andare. E tu portala a me, te lo pago, mi dici come si fa, ci provo io, assai più. E tu hai cane fra lì un brogitto, un preso là. Tu invece attaccati lo lascio interruttore. E chi su chi devi capire, vai e te lo fai a caduto, devi fare. Dì che se voglio lo faccio, c'è su internet come si fa, ti fa vedere tutto l'operazione che devi fare, l'ho già visto su internet. No, Luca c'ha il brevetto, e quel brevetto devo prendere su, diglielo lui. Di vero Gianmarini, fare i fatti da farli le cose, di vero. Già, vai di sentire così, forse a chi lo può gratis, graziano. A me sa che se mi pongono un po' su me, a me da su internet, comunque. Io sono da tratti, bello bene. Mi pongono un po'. Vabbè, se ci mare, lo dovrà aprire e lo dovrà qua. Giovanni! Se ci l'hai dato imparato, tu imparato sei nato, Giovanni. Se ci così non li gioco qua io. La cosa è anche quello bisogna imparare, però se tu vuoi farti la scuola, c'è la persona disponibile che ti fa scuola, però devi anche aderire. Mi accendo il cellulare, lo metto lì, guardo come fa quello là, fa vedere tutto come fa. Occhio, ma quello l'hai già fatto. E non è così come dici tu, facile, vai. Non è così, diglielo lui. Luca è nato, imparato a fronte è nato. Addirittura, imparato a fronte, bubù. Ma non ti risponde, Luca, Montalara, non ti risponde, guardami, eh. Secondo me è subito da mio letto, è caduto a capo a terra. Io gli ho giubilato 30 euro di materiale per Gio Mario, e se vi raggiungo a Gran Padua, chiedo non ne vuoi più fare. Ah va! No, tocca a ponere in conto. A me! A Graziano, gruppo. Ah, vero è Graziano, da un solo si fa, No, Graziano è giunto a casa tua, una accetta della mia padula di Anna, materiale, dato che c'è l'officina adesso, già lo prendi lo stesso, a un altro e no, non li perdi mai, e poi il magazzino devi avere sempre le scorte, vero Giovanni? Certe scorte sì. Che un altro me l'hai chiesto, scusa, non fa un falso del cucchino, così e tu direi pronto il materiale. Uno che si apre un'attività che va a disciplinare i soldi per aprire l'attività, bello bene. Poi se il cliente ci rispetta che non ci viene, non lo perdi il materiale, bello bene. Così è, non c'è più che si faccia così, Grazie, ma come non sono tutti come te, se noi ci siamo arruinati. Ma di su, la sorte è giocata da Ciambaglione, ma di su. E da quando si sta cambiando queste cose? I figli di Abilandello, e dico, ehi, come come ci hanno quasi compleanno? Cazzo, Ciambaglione, ci sono tutti come te, cristallizzate si sono, così è. Andati a registrare in basso, andati a me, nel 127, tutta un puglione, però basti strada un filino c'era ancora. Sì, ma dopo un po' di anni si cristallizzano, capito? Sono molto pericolose, nel bagnato ti sia la macchina, come ti pare, una saponetta sotto un guru. Ma per la sala che faccio il corio, qui si mi voglia arrivare a 20 anni qui. E ma di tu. Cazzo di ragazzi, tutti come siete già mangi, via. Beh, lui, grazie a c'ha il cingolato, c'ha. Non è che c'ha solo le gomme di gomma, no. C'ha anche il cingolato lui. Oh, iaia, come stanno tutto ciuppando, mi sanno. Niente, a me. E la me ne ha piazzato quattro ecco, ma di tutti mi anni dalla lascia, che erano buonissime come gomme, e le poi lì più barattico, mi spieghi che ci devo più barattico, e fanno il cazzo di timone, e poi lì e basta se altre allora, 8, 9, 10, 4 anni l'ho data che erano buone le gomme ancora. Chi so ha imparato un pare con me chi si deve a Pirandello da cocomme, ha imparato un pare con me da voi piano piano si è attrezzato. Sempre da quella andato anche per la moto, sempre da chi si sono andato, mi abbia preso voi. Maria, mi insegni a me a cambiare le gomme, con che casa tua che fa scuola guida? Scuola guida l'aveva fatti. Allora, così non mi apro un gommista con Luca. Ah, da lo vedere a fare allora. Ma io e lui, ce l'abbiamo un gommista. Così a Luca, tu. Voglio, lo sai, se tu ti mangia Edo, Edo ci mangia a te, per una fame, per un figlio di settore. Oh, comunque, cambio, sono che stato licenziato da Cocomme. Ma te l'ho fatto qui sul riflettore di luci gialle, la esso mi pare sì. Si andava a fare un commissa ai gipi, catta, ah già se la tu vuoi andare, sei dentro fra caradì. Picchia, te usi poco. Ehi, ha diritto, a farsi benedire. Molti anni c'eri Giovanni. Ah? Molti anni c'eri. Da risaldi a fare travagli, no che delle macchine, ma pure dei mezzi industriali, certo, hai già frammento all'ordine, si è messo a rotti, ci hanno messo i gommi. Se uno può travagliare, io conosco meccanici, io ti parlo di un bel po' di anni fa, travagliamo le messe a mezzanotte, l'una, lui Mazzano, che si apriva di un motore, magari viveva un motore da nuovo, si vuole guadagnare subito. Capito, ma lì se la guardiamo, se ne so, da lutto di Manzano, vince a Stato, la sera, tu me la consegnava. Certo, una libera giusto, una battuglia, si roppina lei, ho detto sì, ha voluto poi a vedere tutti i documenti, se è in regola, no, gli saltiva, venga, venga, glielo faccio vedere i documenti. E tra l'altro, ecco, si faccia dai documenti da quell'operaio che è dentro quella cargiola. Il principale che gli aghira. Vabbè, va, Giovanni, a travagliare i lastri, dai. Vabbè, tu, la parte tua è fatta. E tocca a noi, giovani, lavorare. Travagliare un bussino, si vede. Qua per cominciare a i sigari industriali, gatta. I sidratori. Gatta, una gomma, gatta. Vabbè, la buia abbiamo la macchina noi. Però, c'è la fermentare i soldi seduti. Ti rifarava i muscoli come niente. Sì, migra, Giomari, ve gufa facciata o vacconi, ve gufa i nonghi. Oh, che cazzo, e se a di cosa sei fermi? Gufo, vuoi sapere bene, ti beggumi, se la faccia da ovacconi. Aspetta che ti beggumi, mutande, se porti il pantalone un pigiama. Bravo, proprio in mutande, so, come fate a saperlo? Se ti vedo da di qua. Come sono le mutande? Ehi, c'ho anche il cannocchiale. Di che colore sono? Altricette. Mamarron. Tricettine si vedono. A parte con questa tenda non vedi niente, è impossibile. Quello è il mio cannocchiale più unico. Passa attraverso i muri anche. Però bene. Mia bassa mi sono andati lichissimi, hanno fatto marciapiede. Sono bravi però, Sono ben veloci. Io in piazza sono entrato. Che hanno fatto una specie di, non so come viene chiamato, cemento, non cemento, gettito a coso, dai, a granelli, poi l'ha fatto, ma non è fatto bene. Gli è fatto bene, è preso, non l'ha ricordato la risulta a fare, e materiale ne hanno messo parecchio. È fatto bene, anche se stanno facendo i buchi. Evidentemente mettono quei pilastrini che sono estraibili per non entrare nelle macchine. Eh sì. Beh, le macchine non devono entrare, chi sono li fascia di torra. No, comunque non è fatto bene quel getto che hanno fatto. Se tu passi in piazza, cioè li rialzi, non è fatto bene, grazie, affidati. Non lo so. Sì, hanno fatto un bel lavoro perché l'ho visto. Chissà quando la consegnano. Ah, mi sa che l'altro mese c'è festa, Piazza dei Tori, l'ha detto Radio Venere, non so cosa ci sia. In quel memoriale di Giovanni Dogiordo, non so se è a aprile o a maggio. Io so che devono terminare entro questo mese, dovrebbero pulire anche i giardini, che giardini che fanno il con gli alberi paesi. Vediamo. Ma non solo quelle aiuole, gialle, le vogliono pitturate, dargli un colore. Cioè si fa e fai tutto, Ma ho visto anche gli scalini che sono una mezza gaggata, Chi si fa fare il bene di ricorniciare i muretti degli scalini. E poi quegli alberi che ci sono, come i giuseppi, tutti questi stagnotti, sono secchi, fanno schifo. Quelli vogliono più sposati, puliti bene. Vabbè, tre camion di mondezza, grazie, se vogliamo fare una cosa fatta bene devono fare anche le aiuole, poi tagliare quegli alberi che hai detto tu, rifare bene il busa d'oggi, chiamare come voi, la tribuna. Però secondo me le macchine lì le fanno entrare se fanno le feste, se no come fanno a fare la festa? Il mezzo deve entrare per scaricare. E magari arriva fino all'imboccatura dove l'hanno fatto questo. Ah? li metterò anche all'entrata. Poco se li fanno entrare in Cina. Un pezzo poi si ripulsano con un carro, non so, sono un altro sui. E pezzo si sta passando con un carro, come si passava negli altri bussi. Non vorrei fare subito questo. Quello, tu cosa ne dici, Gio Mari? 700.000 euro, ma cosa? Ma lampati. Ma questo aspetta anche a fuie, per i fandai. Bisogna guardare, se dovete vedere qualcuno facendo danno, bisogna intervenire. Che ha preso a fare così? Se no lo distruggono subito quel lavoro che stanno facendo. E lì ci sono spese, ci sono milioni, ci sono, capito lui? Dipende anche da voi a terrò conto di quella zona, Dipende da noi, io mica vivo qua, ancora non vivo permanente. Lì dovrebbero mettere un custode, chiudere, mettere delle ringhiere e chiudere e aprire il custode. Lì all'entrata mettono quella specie di coso, di che vedo adesso, una specie di cabina. Mettere, non so, i ferri, no, chi non è che se non è le bizzichette hanno di tutto, ma non so quante reti sono sparite, via per carità. Attraversati un paio di mesi e distruggere tutti i libri. Troppo niente, me ne freghi sarei, se ne fregano, invece dovete stare attenti a quella zona. Visto qualcuno chiamate la gente e agente subito all'ubbigia e la mezzo. No, da lui no, non lo so, no, non credo. Magari se è passato in questo palazzo sicuramente avrà chiesto a quella, la responsabile, diciamo, come si chiama? Marisa, vecelo Graziano, dice che sono passati da loro per chiedere nel palazzo di mettere un contrattore per la piazza. Quelli da lei sono venuti a fare il sopralluogo a vedere dove metterlo questo contrattore. Oh, non lo so, Marina mi ha detto che non lo sa, non sa niente. Adesso non lo so se ne devono mettere altri. Anche se un contrattore non può più in base. Deve essere per quando fanno le feste, non lo so, tu. Prima portavano un gruppo le croce, lo vedete. Tu, un'altra volta avevano preso la corrente dal palo della luce, non mi ricordo grandi. Avevano il gioco di mettere un contattore apposta per quando fanno le feste. Ok, truppi! Cosa? Ok, truppi! Occhio al truppo! Cari truppi! Aspetta, allora la devi fare a fare io. A me mi la disturbato un po' in turbate, no? La gente mi assicura di erano di me. Ma di che? Dai anni di un po' poema. E quando vieni? Non è un gioco, ma non ci devi venire. La devi fare a fare io a finire. A cosa li tu accetta a capo? Rientro subito. Lu! Arrivo subito, non a mangiarmi. Cos'è se ne senti tu? A mangiare i gassici che si mangiano. Luca, sa com'è, là non ce ne sono più. No, si è fatta piantare la bacchisi. Me la cacco, c'è. Ha sbagliato di Samela 20, quella cerva, Pugnavena, porta di la valla e ancora è finita. Grazie. Ehi. Gamba chi se si era fatto piantare in serra. Ecco. Stamattina ci stavo buscando due acquirenti per l'agnello e il capretto. Allora mi hanno dato la risposta. Contenta, sì. Illu. Mi devono dare la risposta perché il nero mi ha detto che è troppo. La gente si mette d'accordo con un altro, comprate quello di biglietti in due. E cazzo sai, chiedi a qualche altro, se ne vuole la metà, lo compri e te lo dici in metà più di due. A chi da poi l'aumenta, capito? Quando da poi andano in macelleria, la ciampano un doppio di chi sono di qui dopo io. Infatti, è la Gentimiglia Espresso, è buono, ti dà l'agnello a 8 e il caprese a 8 lo stesso. Ha detto Baletta, il caprese quanto pesa? Non lo so, Graziano, ma credo che sia intero anche quello, e boh. E quanto avrà pesa? Boh, non lo so. Ehi, tu che sei in mezzo non sai quanto peserà un caprese, stesso? Se 7 kg come un agnello, un agnone, penso Aspetta che le mando il messaggio. Chiedigli quanto pesa all'uscita un capretto e un agnello. Così glielo dico. Chi è che sta vendendo il capretto, Graziano? Un paro lo voglio vivo, a chi devo fare io che io sta pascolando a mangiarsi l'elba. Allora bisogna pigliarti il sabaracco a mezzi e ricirvare di riboniti e di beddi. Capirati un ricirvati pure lo zainetto con la borraccia di zucca, papuli rubini, greci e la borsa in peggio, papuli da cacciotta e rubani greci. Ma che faccio rimagna? Pani, calci, cacciotta e salsiccia e latte. Ma lo lascio di farti male a te, mi. Io mi mangio la pastiglia, la pastiglia che la do a capretta. Ti andrà bene, ti andrà bene. La fare, no, che ci si mangia tutta in selva, in festa, tu. Ma come ti si la mangia, che te mangia nella fugliaginetta e cresce nella fugliaginetta, ma dunque, tu mangia è gratis. E allora viene a dire una resina, gatto, si chiede di buona a curare i chivi. Allora manco, gatto, li fai un po' di movimento. Una buona da bea, chi? La strisci, lo mangiare si fa la colazione, durati fa la colazione. Ma vattene la grabba di faccia diarrea. Mi lo vende il figlio di tu, di tu, vino e grasso. Insomma. Sei sempre disponibile, così, a qualsiasi cosa. Ma Luca Gufo, ma... dove è andato a finire? Grazie. Luca Gufo è al telefono. Sta chiamando a vedere all'incirca quanto pesa il capretto. Ce ne saranno tanti pesi, no? Su per giù magari, là. Era come l'agnello, la stessa cosa, come te l'agnoni, Emmi. Non è che pesa la ribiera, ma che senso, se è maduro, catta, pesa un bel. 5-6 kg, di fila poi è pesa. Va bene, 3,5, 4, dai, 3,5, 4, va bene il capretto, dai. 3,5, 4, non è troppo largo, 5 kg può andare a pesa. Asalaggio, catta, te la ordena, rogastita, prego, prego, oia, non ti dico niente. Te l'avevo preso un anno già, al mercato l'avevo comprato, al mercato qua a Sassa. A chi aveva finito l'agnone, ma ti vuoi fare un capriccio, e dammi il capriccio. Lo è buono. È tutto buono! Caduto sì! E chi? Hai copiato! E che cosa? Che gli ho detto che il peso non lo sapevo quant'era! No! Ma chi è che sta telefonando, Luca? Luca sta telefonando a vedere la lista quanto pesa! Ci sarà dei 3 kg e mezzo, 4, se ve ne sarà alcuni di zinco, catta, Va bene. Ma è troppo grande non conviene, cazzo. Invece, da 3, 4, 4 e mezzo andare, dai. Va bene, mi vuoi già dici. Su per giù il bodino, chissà l'ubismo. Su per giù, no. Su già, su per giù qualche po' pesare, si chi fa, eccetera, capito? Già, lo so. Adesso mi posso la casa da riva. Parapei! E beh, dove ti siete? Maria, dormito, buffo, addormentato, Luca Fippe sta facendo la micella. Ah, io già ci sono, Luca, sono in ascolto, sto comunicando, Luca, dai. Già sto ascoltando, però, quando posso già Luca! E Luca, dormito, vedi? Allora, già sto ascoltando, grazie, sto comunicando delle cose che devo consegnare fine settimana, dai. Ah, hai chiamato, ha risposto cioè. No, non mi ha risposto ancora, lo sai che ci sono due persone che, perché io lo devo dire a mia cugina lo deve dire a suo pastore. Ehi, va bene, fammelo sapere, ok. Luca Montanaro, cosa stai mangiando? No, mi tu sei tu. No, ne stavo entrando due magliette che avevo lasciato fuori. Erano in mezzo asciutti e la base con l'umidità sta scendendo, ma le ha bagnate di più, ce l'ho messo vicino alla pizza. Sì, a sapere buona la città. E infatti, l'ho messo lì, e gli ero appoggiato sopra, 10 minuti qua. Per una piana, fa l'inferno. Aia! Lo so, freddo, freddo. Ah, se oggi va a stessa, stasera, alle 5 e mezzo, 5 e mezzo, non è anche, le 5 dai, quando va a stessa. Oggi si stava bene, anche se dentro casa, però l'abbiamo distrava la pelle, io da qui, barra l'unitore e comincia a sentirsi un freddo. Qua è a uno mio, la digri, va bene. Sono asciugato vicino alla stufa io. No, a tre, c'è lui. C'è altra cosa, guarda, asciugarti lì. I simbocchi bari che mi sono rimasti in capo. Tutto, capito. E anche io quando esco dalla doccia, se non c'è nessuno, mi ci metto davanti, chiudo, allora sai come ti asciughi su. Quell'umidità che ti rimane anche se ti asciughi con la cappa studio. Ti barivi, ti metti secco in 3 minuti. E infatti io mi asciugo così. E anche io quando esco dalla doccia tiro belli su, a parte mia moglie, mi metto lì. Ah, ti fa bene nudo la tua moglie, brutto porcaccione che non sei altro. Mi dice a fare lo strippizzizio ed io riporto lo strippizzizio. Tu non glielo fai lo strippizzizio. Luca! Aspetta un attimo, grazie, sono al telefono. Oh, gufo! Ma dove sto PC? No, aspetta, metto a caricare questo e prendo l'altro. Luca! E lui? Oh, questo è uguale, la motivazione. Va bene. E l'altro lo verso a caricare. Il TC5, cosa si chiama? Ma sopra il portatile. Eia, questo è il T3. TP3, quello là è TP5. TP3, TP5, che cazzo cantinai? Due, questo è un altro. Ah, da poco te l'hai comprato? Era che ti ha abbassato. Invece prendermi la batteria, per questo mi ho preso direttamente un altro di questi. Tanto carico questo gratuito, tanto carico questo e carico questo gratuito. Ah, beh, certo. No, a me già mi dura la batteria. Paghi subito un gratuito, un po' giù duri. Anche qua già c'è, già. Questa è da 3008, quella là è da 2000. Ah, 3008 turbo diesel. Questo è il turbo. Allora è 2000. 3008 pompa, Questo che sto usando è 3008. L'altro invece è da 2000. Andava in roma stessa. Per non pigliare un'altra batteria l'ho preso in 3, se la bella è lì. Aggiungo ha aggiunto la differenza, tanto pare compagni un altro. Senti qui, questa mia batteria che era la radio. 16 euro costava la batteria. Siccome l'ha sbagliata, l'ho rispedita indietro, sono venuti qui a ritirarsela. Le sedie mi hanno rifatto il rimborso. Ho aggiunto e mi ho preso quello là. Ah, l'SDA ti ha restituito i soldi? No, i soldi me li ha restituiti, me li ha rimborsati Amazon, tramite Amazon l'ordinato. Ah, ho capito. Aggiugavit. Vabbè, grazie. Si va giù di conti, ne migli una batteria, poi ne migli un'altra, per dire, quanto tu vai a compagnare Radio Nuova? Non è quello, tanto pare mi ha aggiunto la differenza e me l'ho preso completo. Quando carico questo biglietto, e gli deca e carico questo tratto questo, e ne ho due. Per poca differenza conviene prenderne un altro o no? Eh sì, ma sempre Boyfeng. Sì, uguale a stesso, uguale a questo, le stesse caratteristiche, c'ha. Solo quello là è il 5, questo è il 3. Ho capito. Vabbè. No, adesso un biglietto come radio, dai, già fanno il loro lavoro. Solo con quello là, col pulsante, puoi passare da questa frequenza all'altra frequenza. E poi c'è la radio, la pila, come questo. Quello là invece puoi fare, schiacci il pulsante e passi direttamente all'altra frequenza. Anche questo, però quello là schiacci solo un pulsante. E qua lo stesso, cosa c'entra? Qua schiacci A e vai in altra frequenza. E là ci sono due pulsantini, no? C'è questa frequenza, se io voglio passare all'altra frequenza, schiaccio quell'altro pulsantino di giù e scendo giù. E già sono bellini, là. Già poi ho letto tutte le caratteristiche. Già sono abbastanza buone. E anche antipioggia, pure se ti si farà in leva funziona. Ma non questo che stiamo usando? No, il TG5, TP5. Questo non l'ho letto, devo leggere nel giornale, nel libretto suo. Ma penso che anche questo sia così. E antipioggia, anche se ti cade nell'acqua, nel luogo funziona romantico. Dipende da quanto rimane nell'acqua. Non lo so, però anche se sta piovendo un bel e tu stai parlando in mezzo all'ega, non li basi nulla. Ho capito. Sono impermeabili. Sono come gli orologi là, gli orologi del mare. Sì, ho capito. Aggiungavi, c'ho fame, però andassi in là. No, oggi ho fatto fuselli su Guarragù e a secondo mi ho mangiato un bel pezzo di ricotta mustia e la giocura che mi è rimasta da ieri sera. E poi un pezzo di formaggio, quello con i buchi, e un arancio e una pera, e buchi. Mamma stamattina, no, quando è ieri notte mi faceva la glicemia a 180. Cazzo. No, io stamattina invece vi la via 152. Alta, molto alta per voi. A digiuno? Quando mi sono svegliato, perché mio 30 di notte mi è giunta a sedi, ma non stava più, ha sbagliato due caramelli, per quello. Troppi zuccheri, ma c'è le caramelle senza zucchero. Non ce n'era, c'erano quelle, le ho finite, me le ha comprate oggi, quelle senza zucchero. Mi ha sbagliato due di ghiaccio. Perché rischiare, carta, per due caramelle e che ti sale la glicemia? Tanto vale ti mangiare una merendina. No, a mangiare no. Cosa mi bocca? A mangiare la una di noi. Mi stavo guardando la TV. Io c'era un periodo durante la notte, cazzo, una banana, poi forse burro due, merendine, succhi di frutta, aranciata. A mangiare una volta che ho cenato non mangio. Magari mi mangio una, due noci, guardo il film, poi quando fini, ando tutti i coppi, e in camera da letto, sotto le persone, gli altri mi sono guardati a lui. E mi guardo quel programma oggi di peso, quei programmi pronto soccorso, quei programmi lì. Vabbè, pure io, quando arrivo a casa, mi metto verso le 9:30, e mi accendo il televisore in camera, e poi verso le 10:30, 11 metto il timer, a spegnersi a mezzanotte, più o meno, e non so cui addormito, però mi guardo così, o di Max, oppure quello a 59, a me piacciono quei programmi dove fanno le cose, no? Che ricavano, cosa adesso... il materiale, pentole, fanno un'altra cosa, cucine, fanno, adesso, dalla plastica fanno, roba riciclata, diciamo, da, quei programmi lì mi piacciono a me. No, io mi guardo quei programmi, se no, che fanno le case in legno, dai boschi lì, in Alaska, tagliano gli alberi e fanno le travi già predisposte le case, e poi le vendono su ordinazione, li porta vanno, ti fanno il progetto nel pezzo del terreno dove te lo devi piazzare, e loro lo fanno i dalieni e fanno i dravi, pareti, quasi semi come tipo là, che invece a cimento e te lo fanno il legno di un abisso di tronco d'albero, architrave. Poi fanno anche dei disegni belli, la testa del cervo, la testa dell'orso, e la appendono all'esterno della casa, tutta in legno. Ma casa! Già lo so, Grazia, già lo so. Già lo so che fanno anche gli animali, cavolo, sono bravi, È vero, bello. Quella casa lì costa $400,000. Qua ce ne sono vari prezzi e fanno le consegne in tutto il mondo. Uno in occhi, uno da voi. Vieni in occhi. E arrivano il materiale già pronto a piazza all'arta. Ti danno il progetto per farti il basamento. Con le misure e tutto, poi loro il giorno che arrivano con i rimorchi, i giudici piazzano la casa, travagliano il bus sotto a legno, peggio di line. Già lo so. Ma se lo fanno ci guadagnano un bel di soldi, non ti preoccupare. Penso che il guadagno c'è, a voglia che c'è, a chi non ha visto vanno tutti i macchinari, terreni dove lavorano, non rimanca nulla, non rimanca, ma non l'hai visto. La moglie di Nichito l'altra volta l'ha detto, mi aveva promesso il letto e il legno, e un'ora l'ha fatto un legno, ma un letto, ma da capolavoro, tutto con i disegni d'animali, ricamato, visto la vivi, beh da reduina, dugna di padella, e quando si frasegheggia, chissà mai. Sì, ce l'ho visto, adesso sto guardando canale Alfa, e sto pescando quello. Anche quello mi guardo, quello che va a pescare, che va anche dove fanno le gare di pesca, poi si rampa a mare, che prende il pesce più grosso, però di quel tipo di pesce. Anche quello già me lo guardo, è bello già. Anche quel programma degli autisti in neve, in Alaska, nel ghiaccio, e poco gammella, ne viso pure femmine e tutti vestimi. Sì, l'ho visto anche quello, lo danno più volte, sempre lo stesso. 3-4 volte lo danno, però poi c'è scritto, la prossima settimana ci sarà le riprese nuove. Anche quelli se lo fanno il mazzo, non l'hai visto? Si è capitato un pesce, un mostro, non un pesce. Ma Gio Maria che fine ha fatto? al telefono, mi pare che dagli italiani, Maria. O se no quello là che va a pescare tutto in mezzo agli squali, non l'hai visto l'altra volta? Unia mare, minimo vedano i mille squali, ed è in mezzo agli squali. Però si abbeggiava sempre in alto, in basso, ad arena, sempre abbeggiando erano. A chi certi squali gli andavano vicino e lo strisciavano addosso. Grazie, per chi sei, o guardi qua? E il canale, sì, li guardo tutti, guardo il 31, il 56, tutti li guardo il canale. Dopo c'è roba che mi piace e me li guardo. E stasera mi stavo guardando Geo, che fa vedere documentari di montagne, di animali, è bello anche quello. E quella è bello, sì, quella è molto bella. Ma quella dell'Alaska, quelli sono cose belle, dai. Caspita, quelli mezzi ghiacci, quei pescatori, di tutto c'è, là. C'è di tutto, e per cui sono programmi, documentari che bisogna anche vedere, che fa piacere. Certo, lo puoi vedere tutti i giorni, sempre lo stesso filmato, no? Però già cambiano, dai. A voglia che cambiano. Guarda anche quel programma che vivono senza spendere soldi, che vanno dalla caccia che fanno, vivono. Dalla caccia, dai pesci che prendono, sempre in Alaska, vivimi. E hanno deciso di fare la vita lì e vivono lì, si andano a caccia, a pesca, pigliano gli orsi, si vendono le pelli, tipo ai tempi antichi. E ridinate li farsi. E allora, quei salmoni grossi, dove si portano pure qua, le porte, ci sono anche qua di quei pesci che prendono lì, capito? Il salmone, catta, e tutti i tipi di pesci li portano anche qua in Italia. Ieri lo stavo guardando, ieri questo qua, per loro però, stavano cacciando anche certi topi, mannicanti, un cunillo, topi di palude, zugna sarrone in mezzo all'eva, con un Winchester lo sparava a figliarlo. E chi si rimagnano? Perché tanto mangiano i pesci, radici di quei rami che ci sono lì nella palude. Capita proprio lo sorcio grande. E il lavoro di loro è quello lì, capito? Poi quella roba, siccome ne fanno molto, allora dopo le esportano in tutto il mondo, vanno a finire quella roba, capito? Eia, chi da signora, con un fusile ha pigliato l'orso, l'ha tutto bello cugliato, ha posto la bella a sicca, ha rubretto fuori, e le pelli se le vende quella, perché una volta all'anno va al paese con un garrigo e si vende tutte le pelli degli animali che riesce a prendere, e però la garra se la magna etta. Gli auguri. Certo. Penso c'è a caso l'animale lì, che loro vivono lì a forza di questa roba, capito? Niente. Ili, maccarrono per il giorno, io è tutto garra e pesce, boh. La testa dei cervi, va via una binnetta fatta lei con i legni grossi, fichi di in un ghiaccio, la beveva un tendone, baiana, entra da tre ti venivano i cacchi, 6 o 7 appiccati. Dice, ma oggi mangio cervelletti, ne ha pigliato 2 gabbi, con un sighetto ne ha tagliato rigorri. La bella un burrito, una bucata di tutta la belliccia di un capo, l'ha impaccata in due, sa suffrigito un salvezzo, con la lingua, gli occhi. Ma cucinelle si la magna di subito, freschi freschi. E tu l'hai visto, sono bianchi e rugli, gatta, belli bieni. Certo, gli arugri mangiano tutta roba sana, lui. Loro sì, ma sono hanno preso un salmone grande, proprio già era già preso, e praticamente il tipo non è riuscito, sono in due, non è riuscito a bloccarlo e gli è scappato, ma grande. E quando ha preso anche il pesci spada, cazzo, non l'hai visto, cazzo, con una bestia, tutti i tipi di bestia, con ogni bestia, cazzo, tanto Antonio mio, cazzo. Ma lì viveva se pieno i mari, quelle palude e anche il mare, deve essere pieno di pesci. E l'hai visto quello nella paluda, quanti granchioni ha pigliato, di chi compariamo noi? Ma niente retta si ha fatto da voi, tra la tenda, di chi si granchi, un granchio, di quanti erano i maduri, va via nei rubelli, nata la coppa. E noi non li mangiamo, e noi abbiamo mangiato lui buro, con ognuno cazzo, la rugria, ma che? Cazzo, solo cazzo, con un cucciare, un cucciarino mi tocca da mangiarlo. Ah, con un cucciarino, io sta entrato l'udito, già ne c'è tutto, altro che cucciarino, con le mani, tutto con le mani mi mangio mangiato, e allora? Da poi di tentacolo che ti croce, ha ripigliato lo schiaccialuce, laggiù, il paccato 30 era pieno pieno. Chi sta succiando qui, dice da voi, dai. No, già sono buoni, dai. Già sono buoni. Ma quelli lì, ripeto, mangiano solo pesci, pesci e carne, gatto, di tutti i tipi. Per cui tu li vedi che si cristiani, tutti bianchi e rugli sono. Quelli colore, gatta, con ogni abbesso di pidommo, gatta, evidentemente è tutta roba sana quello che mangiano, capito? E chi da femmina non ha visto ogni pezzo di femmina, è rimasto, ed è sola, mi, uomo non ha, chissà, vive alla giura, ogni abbesso macio, ogni abbesso di femmina, quella lì che ha preso l'orso, quella lì, capita. No, mangiano anche, ci fanno anche le alghe marine mie, insalata. Hai visto la lavorazione che li fa? La buona in asciutta, la base in essicca, li fanno il trattamento, dove si mangiano le alghe marine, che costano un bel mix. E già mangiano bene lì. Certo che, vita brutta però, è vita brutta. Mamma mia, cazzo. Un disipero va uno, ma se andiamo noi di trovare un disipero e gli si lo vede a basso abituati e per cui vivono così da soli, ecco, in lontananza, però hanno tutte le attrezzature, hai visto? Hanno tutte le attrezzature per cui vivono bene, dai. Bello, vivi nel mezzo alla natura, e Romagna, se ti ne sei che mangi, se non muori. E invece è bello, non ti comanda nessuno, non hai di travagliare quello che fai, è per te stesso. E non vivoni, né casa bollata, né licenza, né inizia né disastro. E le cirocchi, papi con pesci con una licenza. Oh, i chivi non vivono nulla, tu andi chivi. Ti fai la barracca, l'azienda, la casa, chissà che ti piace a te, ti armi un paio di fusili, e, insomma un'attrezzatura per vivere là, fa piccare, e a voglia, ui. Quella la va una volta al mese al paese, che è lontano pure, se no glielo portano in elicottero, l'hai visto vanno in un baracchino. Ordina quello che vuole e glielo portano in elicottero. Lo pagherà l'elicottero, forse la roba che gli porta, però mi ne ha tutto. Ehi, ehi, boh, riguardo un po', riguardo sempre anch'io. Sì, va bene Giuseppe, e c'ho sempre la bassa lastra. Caso c'è un programma che mi piace, me lo guardo, capito? Là. Come te geologia, e anche quello guardo io. Adesso qui apparecchio, parecchi, un paio di mesi non ha mai tu. E ogni sera Rai 3 incomincia alle 4 incomincia. Ehi, va parecchio, e beh, io sono magari un calcolo caldo. così che no. So che ma capita che di accendere a quell'ora e già me lo guardo, capito? Avanti tu. Ce ne sono programmi belli, dai. Io guardavo di solito di Max, solo quello. Ehi, insomma, di tutto c'è. Quel programma americano, articolati, cazzo, che si scudi un lastro, cazzo, fa delle acrobazie che non hai idea, cazzo. Cascudi, si scudi la pare, cazzo, e non ci fa di niente, cazzo. E anche quello. E ce ne sono, dai. Però va, già, non è come qualche anno fa in opera Pazzo, se si dice cazzato. A me, ripeto, piace quello dove costruiscono le cose. Quello delle case, di legno. No, dove costruiscono qualsiasi cosa, tipo, cosa ne so, qualsiasi cosa, una macchina, una moto, una lavatrice, un televisore, queste cose così, tutto. Sì, ce ne sono. Basta girare. Stasera quando avevo la parabola motorizzata io, cazzo, da 120, cazzo, avevo i 5.000 dell'eco antenne, cazzo, decodere, tutti li bigliavo i satelliti, tutto il mondo bigliavo, cazzo, tanta fino a bocca li brogavi verde, cazzo, ma la una santa. Ma rara per bisogno che tanto programmi in ricalto di Biasi, ve ne so 2000 cazzo di questi canali, cazzo, io già la televisione. Sì, ma infatti ce ne sono tantissimi. Ma te lo pigliavo visti, capito, visti, capisci a me Giomari? Edo li Biasi. Lo 26, Edo la baita sempre lo 26. Capito? E ripeti la cana, però. Però non può fare niente, capito? Però bella sempre lo 26 Edu, però sempre dall'11 e mezzo, un mezzo avuti sopra, Io guardo il cielo anche, quello me lo guardo. 69, guarda Graziano. 69, stanotte me lo guardo. E 69 già lo guardi bene già, grazie. Ehi, a voglia. Vedi, Luca non lo può vedere invece, va? Ah, io no. Mi caso con un di Luca, pacca e dai. A chi Luca se la baita? Bah, oh yeah. Davvero? Mi quasi burro e comicature ci fate. Per carità, cazzo. Per carità, che c'ho Graziano, cazzo. Grazia! Pari due. Ehi, a flippara! Secondo me l'ha dato a Baccanari. Oh, chi sia così? Allora, ma bene sto uscendo, sì. Ah, va bene. Perché secondo me lo metto ti ascolto. Arrivi un po' disturbato. Addirittura. Ma tu arrivi perfetto, arrivi più forte di Graziano pure, arrivi. E anche di Luca, Luca certe volte non lo capisco. Boh. Catta il mio vicino e lo sento sempre basso. Boh. Cosa c'è che mi aveva chiamato la signora? C'è Maria chi te la ci può caricare. Carregheggia. No, io non ce l'ho più quello lì. Vabbè, quando carico qui ti tratto video, quando carico qui ti tratto video, appunto della batteria gli andava per ma te. Infatti, lo fai il giambo, sei tranquillo. Cioè, cambio, lo fai vedere la sua batteria. Già, va bene. No, io grazie a Giuseppe attaccato. L'alimentatore si è attaccato, ma ci fa vedere carichetti. Vabbè, ma se c'ho il tempo, lo spazio libero, già mi piace burubito. Noi la preoccupata di far rimanere arrombato. È il solito. Tu la rubi, invece devi trattarli, a trattarli. Beh, non lo capì, però. Mica l'altro giorno stavo usando quello là. Stavo qua su. Adesso io qua non l'ho messo, oramai tardi. Se no volevo mettermi quello là, vabbè, là. Ah, al telefono. Luca Montanaro. E Ludandu. Io si pari sempre, impari. Uiaia, per carità. Ci sarà già combinente, gatto. Ma non credo sia sempre il forrendi, no? Calma, sempre il forrendi. La di. Io non ti dimmo più, già è qui qua giù, già. Eh beh, è tacero, Allora se ti assenti, baby Q se ti assenti. Allora, no. Ah, se non vuoi si è cubicato pure la graviglia. Oh no! Io ti metto su un baby Q e faccio campagna, lo vuoi? Lo Luca. A me? No, a Luca Pippero. Le penso che si fa di campagna il baby Q. Gira, mi prendi vivo, dai, questo mi invita. Mi ha dato, mi hanno riguardato i guardi. Essere in piazza in terrazzo. A piramide però, Romeo, a piramide. Fa la bocca di un forro. Alla berra, fai un fuoco, alla sabbassa si vuole un pochino dentro. Quello gira rossa e gira. Ehi, arrivato il compito, tu dai. Ehi, a me gli annaggio di rompere il barrucchi in campagna. Faccio due gestelli di lavatrice, mezza tambulana, e quando lo abbascia con la carriola. Andiamo con la rosa, la salita ci fa tutti la carriola a buco. Ai te, chiatta. E tu non virai tutta attrezzatura lui? Sì, no, magari. In campagna ce la rostiamo noi, la padre di Marina. A voglia, Rusin, Chili, va. No, che invece faccio un barbecue che mi ha venduto Luca. Come se mi l'ha rimasto, se che mi ha dato la giocola a un lato. Ed è un treno. E dai, io ti ho visto di campagna. Ti rubiate i libri, e cose, in un giacino, in orto botanico, ti rubiate. Capirami, Remi. Così che ti vuoi un pochino dritto, il treno è buono. A fianco, già per lui la rosso. E lo fuoco del buono a fianco, capito? Ah, se lo metto così, Zaivi, poi lo tappo. Alla sola si cucineggia Ivi. No, quando devo fare cose grandi già fare in campagna, allora. Faccio di buoni che sono barrasoni Ivi. No. Quello che c'ho per il terrazzo già va bene. A buglia, ma... quando devo fare un bel di cose già va a fare in campagna, allora. No. Comunque quello lì, mezzo bocchettino posso, arrosto anche, in quel bracciere che mi ha dato Luca. Tu dagli a pezzo, un po' in altra graviglia, cosa esci? Un burro. Ciao Grillo. No, ma faccio questo burro, faccio un serbatoio di Eva. Dice, ma duro però, era canta la zambullana era. Era giudagliato in due, l'ha giudagliato. L'ha giù fatto un piede, l'ha giù fatto, lì tre piedi. Catta, l'ha giù molto poco di terra, trento. A che so che vuoi troppo carbone e legna. E so fa poco la legna o carbone. Catta. Allora sotto, e poi faccio la graviglia di Caiuccia, Ivi. Catta voglia arrocchire, voglia, dico niente, poi arrocchire un bebè cuore pure i lubragiri. Appetito, vivo, oh si no, tra bebè cuore e la graviglia, 30 persone mi, allora sai come ti cucinava, e mangiare, oh ya. Lasciati in campagna, che vera, non la trentina del basso, ho usato la carriola. E due cestelli della lavatrice. E a voi gli ha raccolto. E abbiamo fatto, carri e pesci. A voglia, oi, la gara la bevo, farò a mangiarsi questa cosa, e hanno rimasto a bocco di cosa, già. E per forza, che regalizia, che gli dà regalasso, gli dà la se... Cazzo, che è? Questo, e io metto il vacco a mangiare tutta la roba, e poi se la faccio. E noi ci fate il poveto, se andiamo lì, mi avviso la Marino, da Speranza a Ottava a San Giacomone si fare ma chi mi si fa se vedati a Puglia io mi faccio 350 persone sono tra i salverati io per cui si fa di me sempre si fa del polmone si non c'è in casa e tira a campà la buca di cominciare a ripetere a Puglia. Beh, faccio un bacio, tutto bianco, vivi, ne vedi bancati, ui, e trippi di andenti, e marmitte, e le furretti della cucina, a tumba di voi, tumba di niente, con furro, la bassa asciutta, e allora abbiamo la bassa asciutta buco, e ui, ma... Ce n'è stata gente a mangiare in campagna. Ui. Io quando mi sono sposato il ricevimento me l'ho fatto in campagna, mi ha subito chi saloni. Avevo vedi a mangiare a Baumezzi, a mangiare a vedere, nonostante vedo un sacco di gente, c'era sempre da mangiare, e di tutto. Beh, tu di calcoli, la spesa del salone, tu ti rubici in roba bannana, e te lo grigli, un mese stai mangiando i chivi, tra i etti, e lo grigli, la te ho cosciato un po' a fare il salone, oh già. E noi avevamo fatto un cittadino, invece dalla Rusalone rubili in mania, li tuvagli, mi, sta a piazza sola, sono cassato in piazza sola. La buona alma di signora Anna, a ce li ha 20 di quelle tovaglie, signora, sei tu che viaggio, e allora tu che amici, hai sbagliato i tovagli tutti precisi, i tovaglioni mi aveva dato, tutto, li cadrei, ma posassi me l'aveva briscati il signor Guido Bianco, un mobiliere che gli faceva i viaggi, poi le ho restituite. Pur se mi ne entrano 120, ne sono mancati 20 a rappello da buco, che se mi ne entrano 5? E vabbè, mi la giù pagate, non mi attessi, chissà. Arso che salone era, oh yeah, avevo fatto tutto l'impianto di... Luca Montanaro, per la buggi di chi, allora, vero Luca? La gente che mi soco, cioè, sono rimasto per di asparagi a pranzo. Li ho tagliati, mi sto facendo cucinare adesso e ce li mangiamo stanotte. Sono nominato che due mucci, mi l'abbiamo tagliato a pezzi, lavati, poi ci sono stati i sacchi e stavano molto in frise. Boh, la cosa che non mi piace di più, forse anche l'abbiamo mangiato troppo, però l'abbiamo messo un bel in frise, capito? Allora, quando mi piace, cazzo, li capo un poco e si rifatti, capito? Io non li voglio più. Ma nauseato. No, io non li posso giocare a terra, Gio Mario, cosa in frizza. No, tu vuoi che ammoglio io, ho tagliato una bottiglia e li ho messi a bagno, così non si ammosciano. Ma quando rimani oggi, domani, da rete, si stufano, a me mi hanno già stufato infatti. Gli altri che ci avevo, che erano a moglie. Li ho tutti tranciati, lavati, poi si mi mattessi in un bossetto. Quando me ne venne la gara a me ne vidi. Oh, quando le mangi 3-4 volte, 5 volte, ti stufa. Lo so, vabbè, ma per la partita si sono mangiati. Allora. Tu le mangiano tutti i giorni, ma sono mangiati di sedano. No, parla passì, se non si rimbono in un bossetto. ti rimandi, che ce li devi dare un po'. Neanche oggi ne ha fatto un tegamino, però non ne ho mangiato. Si l'ha mangiato in me figliola, un'amica sua che vede a pranzo. E Paoletta mi pare, io non ne ho mangiato. Oggi ha mangiato, ha fatto un'insalata, cucumma, patate e cose, e pomacci. E più la, come si chiama? La fallora, un piatto, grazie. Che si pana, si friggi, come si chiama, grazie. Il suo piatto è bianco bianco. Ah, la giugna, chissà. Mi ha fatto un pesce, ma lei sa, non si è esagerato. Fa una cosa. Io sì che vi sono due gatti. Vai a fare avvicinare cose, me l'ha rimaniato un burarino, ti torna bene. Vai, vai, dalla ragliata. Mi sta parlando il piatto, ma pieno me. Ci ha accolto tutto. Ma come su rane che ci due gatti. E allora qui, noi oggi siamo andati a Orupì, siamo andati, avevo combinato un pisolo, che era fresco fresco, un pezzo di ricciano, da poi ci ha pigliato, corsi, era un pezzo ma la zuppa di pesce. Da voi si è appigliato, si cose orate, e cazzo, e la pila di bocca di roba, tutta roba di pesce, da Europa oggi, la fila di bocca di pesce oggi, ma è la fila, per la minura, se nella fila. Certi giorni, per la fila, ma te si vive all'Europa, un pesce, da lo so già, no. No, non più di nulla, sul bossetto è piena a bocca. Là di bocca c'è una cassetta delle ferre sopra. A chi non si arrabbiava, a chi non da bui, e si rubiaccio e ne sciampura. Manco per idea. Quando consumo un poco di chissà roba, poi di filo da sotto, uido, e pongo sotto. No, è buono per la mia lunga, avevo fatto un bialo bialo, bialo bialo, cazzo, pieno, che c'è un frigorifero, un freezer e un bossetto pieno pieno. E fermo di roba, ma che su me ce l'avevo su Milani, ma non avevo bigliato, almeno quattro battipo, capito? Quattro battipo l'ho bigliato. Invece ti via fare oggi, un pezzo di Oriscano, ti viene fare oggi, e invece ha fatto. Chissà un tipo di pesce, che va domani per il brodo, allora mi scuteggio i minuti con il brodo, boh! A me mi piace il brodo, io è buono, l'ho fatto l'altro giorno, io, lunedì, e io una volta alla settimana lo faccio il brodo, a me mi piace, così non ne posso mangiare, me lo mangio romano. Avanti Luca! E cosa, grazie, ho capito! Il brodo non ne mangi tu. Sì, adesso lo sto preparando. Io lo mangio. No, è buono, a me mi piace, io lo faccio. O di mangio, una volta di manzo e una volta di pollo. Una settimana di pollo e l'altra settimana lo faccio di manzo. No, è misto, eh. Manzo, no, cos'è? Polpa magra di manzo e pollo. Pensi di pollo senza reggiseno. Misciato è meglio, pollo e mazzo, dai. Misciato è più buono. Ma sai che io ci metto anche la lingua? Ci metto io, Ci metto anche la lingua. Cazzo, a me piace, perché non rimane asciutta la carne, capisci? La lingua di maiale? No, di voi. Di voi stesso, capito? La lingua. Assaggiata, no. No, è fa a me, no, non ci riesco a mangiarla. Buona vita, a me piace bene. La vostra insalata, me la dai due pezzi, catta, mi piace troppo. Magari pollo no, pollo qualche pezzo lo mangio, ma mi piace, lascia di manzo, mi piace a me, la carne, capito? e poi certo si asciutta, a che si asciutta non mi piace. Buoni questi asparagi, ma buoni veramente, come sono di cipolla. La Maria si sta facendo con l'uovo, io con l'uovo non vado d'accordo. Questo poi stanotte, male di pranzo lo posso anche assaggiare, ma di notte, ci vuole un mal di pancia, mi tocca finire il pronto soccorso. Vabbè, lo fa, cosa fai? Con le cipolle le fai? Sì, sì, cipolle boh. Ma non si bruciano cucinando gli asparagi? No, niente, sono belli verdi, buoni, Gio Maria, buoni. La bianca metti la cipolla oppure l'altro rossaccio? Con la bianca? Tutto buono, va benissimo. Tu male mi posso, tu di chi c'è di Gran Turco, come te si chiamano? Le bannucchi, me le faccio abbrustolite, buona rete, no, oh, buona, a me facciamo bene, io le asparagi non le ho mai mangiati, poi, e te male assaggi a vedere, io li vado matto, buoni, a me piacciono di troppo. Sono buoni, non te le compri mai alle rospine, le pannucce. Io le compro spesso, me le faccio anche in forno, le abbrustolisco. Buona retta, la buona piglione, me lo buffo e me lo mangio. Ma le pannucche le mulino bianco? Le pannucche di Gran Turco. No. E prova a prenderle alle rospie, e ti rifai nata la graviglia con un buco a carbone, o anche in forno, la metti sulla griglia del forno, ogni tanto la giri, te la fai a brussolità, buona rete, pare castagna a mare, pare mangiare castagna. Come mangiati, se no fai buona nuda sopra. No, niente, come lo compro? Lo apro la busta e li metto, accendo il forno, lo lascio riscaldare a 180 gradi e poi la appoggio sulla griglia. Ogni tanto l'apro e guardo da lì, no, la posso tirare piano bianco. E si abbrustolisce. Da bene ne avvolgo, ne avvolgo il naso allo piatto, con un pizzico, la biglia, ti brucia un bel. Da confrida un poco. Dabbè, un biglietto me lo mangi a mossi e poi rimane tutto il tronco punto ancia. Caspita se sono buone. La fame è mala. A filo, la fame è mala. Caso per appetito è tutto buono. È tutto buono. Cata. Ovviamente è caso di un bestiere minore io, cata. Appena finita la guerra, mica ancora, ogni altro rocco di gallo abbudito, lo drocco di gallo abbudito, ma brodo, oia, fa marita vera, allora si rappiamo tutti noi. E allora, anche se tempi, lo Gran Turco, capo via Gran Turco, era ricco di campagne, mi. Cosa va una retta così e c'è poco buono, ha rotto così mi, oi? Mamma lo faceva, rubare di rudere con India, lo faceva mamma, catta. Mamma lo faceva, chi noi, poniamo, abbiamo le zacche lì, e te la mostrate con India, lo faceva babbo, e mio fratello. E mamma, immaginava, perché te lo dico, faceva rubare. Ogni abbane, cazzo, un rubo qui in mezzo a fare. Da voi, siccome che allora il bane si faceva ogni 15 lì, no? A chi si faceva in casa si faceva, faceva meno un forro in casa. E tuttora aveva in casa. Così che da voi lo vogliamo assare in un fuoco, si faceva gaso gaso, allora vogliamo il ripido, vogliamo la salsiccia, l'unaccio, catta, e facciamo un barontinato noi lì, no, così. Catta, con questo bane mi alzai, oia, è poco lavoro. E anche se credi che i baciori no, che nel Nuorese, che i bisacci non viraggi hanno un Gran Turco abbrustolito, pronto a mangià. Si salzano in un porcarello, si ricalcini, già cotto, si ricalcini, allora è poco e buono, Luca. Ehi, prova a cuparlo e prova a fartelo nel forno, o quando scendi in campagna, e poi mi dai la ripulsa di quanto è saporito e buono. Ma no, è secolo, è di chi ci frecco, è di chi ci frecco, è cotto così, è buono così. Noi lo parliamo sempre, certo, lo parliamo in un fuoco, gatta, si, e si abbrosciva, si cioè, bruciava quasi, e allora poi si lo mangiava, la giacante era buono. È fresco, l'Eurospiso vendono dove c'è il bancone della verdura, dove c'è la frutta secca. Sai, guardi, lì ci sono le bustine, sono a due, ce ne sono due dentro la bustina. Io mi ripeto sempre, 3-4 bustini mi ripeto. Da me il poco frigorifero, quando la giocare la rompito, la premi la brustolisco. E mi lo sbrano, ed è un bel buono. È sano, devi, è sano, quella è tutta salute. Anche. No, ma poi c'ha il sapore mi piace un bel fatto così mi. Ehi, oh yeah! Beh, prima si mangiava la roba genuina, va, oi, più medicina, va, mangi medicini, oi, e baccalizzare. La gente ha la pelle, di cosa la va? Ti fate il mannacca, c'è la cosa, che a forza di medicini, oi, yeah. Invece prima non finivo tanti medicini, tutta roba originale, capita. La c'è le stazioni di bocco, lui, Ehi, noi facciamo tutti trovagliamo il terreno nostro, a Itri prima noi, capito? Così che noi non andavamo a zorrare niente, non andavamo, trovagliamo solo il terreno nostro, chi tuttora ancora per la memus il terreno, capito? E per cui, insomma, fratelli, capito? Sia ragazzi sia che vivia in campagna, tutti rubiantavano il rodrigo. Uno si rubiantava il panopinti, era per mangiare il ferro, paese, non buoniano appiccato, 30 ristalli, ehi. Il paese mi ha messo da minori, la buonanna di mia nonna, ci aveva fuori vicino al pollaio una barracca in fredda, no? È fatta tappa da tettoia così. Già andavi a poco di cosa di mangiare, 30 kg di tutto, prosciutti, salami, trigo, e cos'è che non qui? Va via la dispensa era, di tutto quella bare in ferro, lo faccio a sacchi. Ma i paesi, mi dicevo me che lo fate ancora queste cose, se asse più poco, però prima era tutto, ognuno ci faceva la provincia la sua, capito, fa tutto il ferro, catta, di tutto è, così che allora noi facevamo sempre un bocco in un cosino in casa, ma allora si moriva di lì, a mano si moriva di lì, però prima si moriva di lì, pure gli addini va via, capito, casa ammassare un bocco. Allora, lo lascio, viene tutto salito, cruciale, e poi i cascetti, tappato, così facciamo l'osso del bocco, ma tessi, cruciale, caso si faccia, lo mangia, si muove sempre l'osso del bocco, mezzo lavato, e sciavono, l'osso, si trattava l'osso, ma poi l'osso bocchino, ma qua lo mangia. Oppure messo di lato a pezzi, pisciato e facendo mangiare, non mi resta l'ore, e poi si avvolgono me. Però non lascio, non era come te, e chi capava, non si può mangiare, a chi fa di schifo. Ma prima si poteva mangiare, si andava pure a campagna col padre Lasco, che si andava a fare la torrata, grazie. Io se lo posso pure avare, ce l'ho il frigorifero dentro la carta del pane. Con questo quadrato mezzo grosso dell'aglio, buonareggio e buon saore, io ogni altra cacca poi c'è l'intaglio da questo ricciolino a fini fini. Adesso me lo mangio, è poco saporito. E lo metto io nel minestrone, nella pasta ai fagioli, sempre lo bongo. Se bongo qui sulla bumata secca, dai sciucco, la bongo imparare un raggio. l'ha preso e si può conduci la valigia. Oh yeah, buona rete, oui. Ero fino al centro di campagna, la salita giù qua. Ma con la valigia l'hai visto. Sempre va a vedere di magnacca, sempre va a vedere di magnau. E allora questo è il programma del mangiare delle donne, dopo mangiato. A te Giomari, buonasera a tutte e due. Certo, sempre va a vedere di magna, basta ga. Buonasera signor Tore, ben entrato. Ringraziato, fa dito un programma la sera, cosa dobbiamo fare? Come ha detto, il programma di mangiare e delle donne, ma cosa fai tu alle donne là? Graziato, non si cade le femmine, ma va bene, va bene, ma le femmine cosa le fai là tu? Come contorno ci vogliono, aiuto, Tore, mi meraviglio di te. Sì, mi meraviglio di me. Certo, io non sono meravigliato. Certo, ma vai da un po' cagli su. Non se ne può fare né caccia né lana con chi su, no? A contorno ci vuole, aiuto. Tomari, fuggi, prima di riuscire avanti di retrogetti. Non riuscire, ma... Da sempre la bacia di femmine che mi su, alla... Fai una bacia di cose più pulsanti, alla... No, si dice su, no, no, to. Infatti, ma no, no, non è più l'età delle femmine, sappigli che è meglio. Grazie, grazie a fatti seri allora, Non si cali più le femmine. Guarda che la donna adesso, fatti, lasciati mia moglie mi ha detto, ma ce lo facciamo un gruppo. No. Certo, non lo so qui, ma chi se dai? Fini, nira, Ecco, poi già ti ha la stanza, un buffo, vai. Che meglio. Ciccio bello o ciccia bella? Ma non si è avvisito, dirai. No, tanto ha stabilito, ha parato un cane. Meno male, to. Sì, se non l'avevi accolto a Ruccio, l'avevi accolto. grazie, ciccio bello, ciccia bella di Sibiglia. In plastica però. Ma chi se lo si è sentito gitto? Ma poi io sono appena in treno, sono tutta la di fura. Allora, ci andiamo a vedere un po' se risponde, ma lo credo, a quest'ora sarà già fratto. Ho già apparecchiato. Attento signor Bacchisio, si dovrebbe risposta. Evidentemente oggi è da palazzo, per cui lasciamolo fare. Avanti Luca. Ma io ho mangiato, poco, leggero. Asparagi solo, cosa hai mangiato? O la pasta hai fatto? Asparagi con una piuma, roba leggera. Come poco, sei da leggero, ruminelli. Da leggero, ti hai mangiato l'orologio, no? C'è da leggero, sempre piccoli senti. Ma non è vero, vedi? Non è incazzabile. Ora te l'immagino, da leggero, magnelli, zellaru, asparagi, il dolcetto. Ciao, Marina, dai se ma niente, lo so che... Ma perché non come niente? No, non lo so che io, Catta, Acqua la mascichetta, non intendi, grazie alla mascichetta, non intendi? Ma non la trivella a mare, intendi? Trincenni, e un pezzo di sella, non dice trincenni, un filuccio, Mammo. Bellalo. Mammo. Sedita sopramodulati. Ciao no, Mari. No, ungido con l'olio d'oliva. Ciao no, Mari. Non le ho, voglio il motore, ho solo. Ho fatto il mammo, se va niente. Vero Lu, su caro. Ah, ormai non una volta ma che gallo, Cosa era traversino, Luca? Viva, traversirami. Alla faccia della leggera, attore, in senso hai. Un travertino c'era Magnelli. Ma mica. Ma mica si può mangiare. Sì, ma ti ha chiesto se stai mangiando un travertino. Ma fai tardi se mangiati tu. Mio marito. Non mi ha compreso, no? Non ti ha compreso. E già so che italiano, sì, fa vedere. Mi saluto, là. Oggi ha già fatto la torrata, cazzo, da un bene. Da Ghiccio Giuseppe Frequenza, per cui ne approfitto, là e chiudo. Ciao Luca, buon proseguimento. Ciao Tore, ciao Tore Casa, buonasera, a domani se coincide. Ciao Grazia, saluto di casa, e stai calmo con le donne. Vabbè, chiudendo, sei mia, adesso chiudo anche io, là, sono otto meno un quarto. Vabbè, ciao, buona cena e buon tutto. A domani se coincide, ok, anche io vi saluto, là che già le ho tomato un quarto. A domani, buona cena a tutti, ce la risentiamo, vai Tore, rilancia a te, ok, ciao ciao. Ok, ciao Grazia, ciao Gianmari, ci sentiamo domani. Ok, vai Luca. Sì, ciao Gianmari, ciao Graziano, dai. Tanto anch'io adesso me ne vado a casa mia, tra le parti alte. Sì, ok, allora Luca, ti sei... ti dico buonanotte, alla prossima, domani, ciao. Sì, ciao, infatti adesso mi mangio qualcosa, così mi accompagni a casa, perché mia madre deve fare l'aria solo, non so la sa preparare, capito? E poi alle 9:30 gli faccio la puntura e mi dico, a domani, ciao. Ciao Luca, ciao. Ciao, ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao ragazzi, saluta la Paoletta anche da parte di Marina, ciao. Ehi, ha ricambiato, mi è pure il rubanolino, il cagnolino. Ciao. Sì, yeah, ciao. Ciao Luca, a domani. Fammi sapere del capretto. Io occhio non ti dà che cani, mi, io sono martedì di cani ultimamente. Non è fa meno. Sì, yeah, ciao. Ciao.